Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Mio padre, dopo essere stato abbastanza assiduo nei primi tempi del matrimonio, col passare dei mesi incominciò a diradare le sue visite. Durante tutta la primavera lo si rivide forse un paio di volte e sempre in fretta come un ospite di passaggio. In queste occasioni egli riprese l'abitudine di girovagare talvolta per l'isola in mia compagnia. La matrigna, che fin dal principio della primavera era incinta, ci aspettava a casa. Il mese di giugno passò senza notizie di mio padre, ma venuto il luglio io cominciai ad aspettarlo, giacché per lui la piena estate era sempre stata la stagione della nostalgia e dovunque lui fosse gli dava il desiderio di Procida. Difatti ai primi d'agosto ricomparve e secondo il solito trascorse quasi l'intero mese sull'isola. Fin dal mattino del suo arrivo salpò insieme a me dalla spiaggetta sulla torpediniera delle Antille e riprese con me l'antica vita di tutte le nostre estati, per le spiagge, sul mare. Io ero ridivenuto l'unico compagno di tutte le sue ore, mentre la matrigna, nella gravezza e nell'anguore del suo stato, si aggirava per le ombrose stanze della casa dei Guaglioni. Le giornate estive si succedevano uguali e tutte di festa, come stelle radiose. Mio padre ed io non parlavamo mai di lei, e in quelle nostre ore felici, la casa dei Guaglioni, con la sua solinga abitante negata alla leggerezza e ai giochi, sembrava quasi un pianeta spento, fuori dall'orbita terrestre. Ma in realtà, io con mio padre non ritrovavo più la felicità infantile delle altre estati. L'esistenza della matrigna si interponeva fra me e lui. La gravidanza che le deformava il corpo aveva alterato anche il suo viso, dandole un'espressione quasi matura. Nei suoi torpidi movimenti, ella chinava la nuca magra, gentile, alla maniera delle bestie quando faticano, e il suo sguardo era velato da un'ombra mansueta, di pace, senza nessuna domanda, senza nessuna ansietà. D'un tratto, io credetti di riconoscere in lei delle strane somiglianze con mia madre. Da molti mesi ormai io evitavo di riguardare il famoso piccolo ritratto che tenevo nascosto gelosamente nella mia camera, dimenticato da tutti fuorché da me solo. E adesso, alla vista della matrigna, quel piccolo ritratto con la sua pietà consueta mi si presentava di continuo alla mente. Ne provavo un sentimento forastico e malcerto, che mutava il mio odio per questa donna in una specie di interrogazione gelosa. E più che mai, come si rifugge da una tentazione senza speranza, rifuggivo dal guardare il ritratto adorato. Sui primi tempi dell'estate, prima dell'arrivo di mio padre, un giorno udì la matrigna lagnarsi che la sua grande chioma di boccoli, con la stagione calda, le dava fastidio. Una specie di capriccio irresistibile mi spinse a suggerirle di raccogliersi i capelli in due trecce e poi di appuntarsele in due crocchie separate, un poco al di sopra degli orecchi. Era la pettinatura che aveva mia madre nella fotografia, ma questo lei naturalmente non lo sapeva, né io glielo dissi. Ella rimase confusa e grata al vedere che, inusitatamente, io mi occupavo di una cosa che la riguardava. Fece però non so quale leggera obiezione riguardo alla lunghezza dei propri capelli. Ma io allora insistei, quasi con violenza, ed ella seguì senz'altro il mio consiglio, adottando la nuova foggia. Così, con questa pettinatura uguale, lei e la figura del ritratto mi apparvero ancora più somiglianti. Provavo talvolta un sentimento strano di consolazione, di perdono e quasi di riposo al vedere la piccola scriminatura che le facevano i capelli sopra la nuca. Anche un nuovo modo che essa aveva di sorridere, con le labbra un poco scostate dalle gengive sangui, ispirava un senso di tregua ai miei rancori di prima. Forse la persona del ritratto, la regina di tutte le donne, sorrideva lei pure a questo modo? E Vanessa era preoccupata di ciò che direbbe mio padre al non vederla più con i boccoli sulle spalle come piaceva a lui. Ma mio padre, al suo ritorno, non parve nemmeno accorgersi che lei si era cambiata pettinatura, quasi non ricordasse nemmeno che una volta essa aveva avuto i boccoli. Dopo il suo soggiorno dell'agosto, per un lungo intervallo non lo si vide più. Le settimane si succedevano senza nessuna notizia di lui, come se avesse del tutto obliato che sulla terra esisteva l'isola di Procida. Perdre le fil du temps, tâter le vent, n'avoir plus rien à craindre, mais craindre qu'à tout moment, au fil de l'eau. L'autunno già si annunciava, con i suoi tramonti precoci. Arrivava ogni giorno più presto quel severo momento dell'oscurità che mi scacciava dalla marina. Assai sovente, se arrivavo a casa prima di notte, mi avveniva adesso di trovarvi delle visite. La matrigna aveva legato conoscenza con due o tre donnette procidane, mogli di bottegai o di barcaioli, le quali venivano a trovarla e si intrattenevano con lei, assistendola con aiuti e consigli mentre essa lavorava al corredo per il mio fratellastro nascituro. Non so come avesse potuto indurli a passare la soglia della casa dei Guaglioni, e da principio la loro presenza mi aveva sorpreso come un'apparizione inverosimile. Per lo più sedevano tutte intorno alla tavola della cucina sparsa di panni e di fasciole, e notai che la matrigna, così sottomessa con mio padre e con me, in mezzo a quelle donne, invece, mostrava una specie di autorità matronale, nonostante la sua età più giovane della loro. Le loro voci animate coprivano il rumore dei miei passi mentre sopraggiungevo da fuori, ma al mio entrare si azzittivano subito, vergognose e diffidenti, e pochi minuti dopo dileguavano tutte insieme, perché a Procida è usanza che le donne si ritirino tutte nelle proprie case col discendere dell'oscurità. Qualche volta risalendo dal mare un poco prima del solito e indugiandomi a godere il tramonto sullo spiazzo, mi capitò di udire le loro conversazioni. Trattavano quasi sempre gli stessi soggetti: vicende di famiglia, di parenti, oppure questioni riguardanti diversi mestieri dei loro mariti, la casa, i figli e in particolare la prossima nascita del mio fratellastro. Fu in una di tali occasioni che udii la voce della matrigna rivelare alle altre il nome da lei destinato a questo suo primogenito. Se fosse stata una femmina, disse, l'avrebbe chiamata Violante. Violante era il nome di sua madre. E se fosse stato un maschio, l'avrebbe chiamato Carmine Arturo. Veramente, spiegò, avrebbe preferito di chiamarlo Arturo, perché fin da piccerella questo nome gli era sempre piaciuto più di tutti gli altri. Ma siccome in casa c'era già un Arturo e due fratelli non possono chiamarsi allo stesso modo, si era decisa per quel primo nome di Carmine in onore della Madonna del Carmine, protettrice di Procida. Carmine suonava pure abbastanza bene, osservò, soprattutto a dire Carmaniel, Carmaniel Arturo. A questo doppio nome, poi, sul certificato di battesimo, intendeva di fare aggiungere Raffaele e Vito, che erano i nomi di suo fratello e di suo padre. Io non dedicavo nessun particolare pensiero al mio fratellastro. La sua nascita ormai si approssimava, ma pure egli rimaneva irreale, come un personaggio della Cina, che per noi non significa niente. Mi era strana l'idea che in realtà egli già esisteva fra noi, nella nostra casa. La matrigna stessa, benché gli preparasse il corredo, non parlava mai di lui e neppure si fermava a pensare a lui, ne sono certo. Il settembre era stato bello, ma rovente come l'agosto, e la primaria autunnale, invece di portare ristoro alla matrigna, parve stremare il suo sangue impoverito. I suoi occhi si erano fatti opachi e inespressivi, come se lo spirito che nutriva il loro splendore s'andasse consumando ogni giorno. E quella maestà, che poco tempo avanti rendeva quasi divino il suo corpo sfigurato, adesso si sfaceva in una stanchezza penosa. Perfino i suoi capelli avevano perso il loro bel nero corvino e apparivano arsi, come ricoperti di polvere. Essa era brutta, terribilmente brutta. E il mio fratello misterioso, che la imbruttiva, si trasformava ai miei pensieri in una specie di mostro o di malattia alla quale ella soggiaceva senza lotta. Cerchiata d'un alone di mestizia, con la treccia allentata che le si scioglieva giù dalla crocchia, ella si muoveva per la cucina e non cantava più, accendendo il fuoco. A brevi intervalli tornava a riposarsi sulla sua solita sediolina. E magari, volgendomi i suoi occhioni scolorati, accennava qualche argomento di conversazione. Sua madre, sua sorella, la sua casa di Napoli. Dell'epoca del suo fidanzamento e delle sue nozze, però, non diceva mai nulla. Un tale argomento, come quello di Dio o del fratellastro, sembrava appartenere per lei a quel potere misterioso che non si traduce in parole e nemmeno in pensieri. Solo di rado e fuggevolmente avveniva di udirle nominare Wilhelm, e talvolta io credevo di intravedere, in qualche suo accenno inconsapevole, un barlume della vita misteriosa di lui fuori dell'isola. Ma neppure in simili casi il mio orgoglio non s'abbassava a mostrarle che i suoi discorsi mi interessavano. Sarei stato quasi tentato a farle delle domande per esplorare, attraverso la sua ignoranza, gli affascinanti segreti che lei stessa non poteva conoscere. Ma me ne rattenevo con disdegno. Anzi, facevo vedere di non prestarle nessuna attenzione, meno ancora che agli altri suoi argomenti. E secondo il solito, la sua piccola voce, scoraggiata di parlare da sola, presto si rispegneva. Thank you. Una volta provai quasi una scossa in petto. Scopersi che ella aveva conosciuto Pugnale Algerino. Nominava infatti, non so a quale proposito, un certo Marco dal quale mio padre aveva ricevuto in dono l'orologio che sempre portava al polso. Costui, il giorno che mio padre e lei partivano da Napoli, era corso a salutare mio padre al piroscafo un momento prima che si staccasse la passerella. Scopersi così che lei lo aveva veduto. Irresistibilmente mi fuggì dalle labbra una domanda. «Com'era?» «Ma chi?» «Quella persona!» esclamai con bruschezza. «Che tipo era?» «Marco?» Ella disse allora. «Ma veramente l'ho visto per un minuto solo dal piroscafo. Mi sembra di ricordare che era uno dell'età circa di Wilhelm, ma forse pareva più guaglione. Gracile, piccolino, con delle macchie di semola sul viso, con gli occhi chiari, allungati e un sorriso scontento. Ah, i denti separati, piccoli!» Mi avvide a un tratto che proprio così all'incirca me l'ero sempre raffigurato io. Le gettai un'altra domanda perentoria. «Era bruno o biondo?» «Mi pare», ella rispose incerta, «che avesse i capelli neri». E tale risposta mi dette piacere, quasi conforto. Adesso, dunque, avevo imparato il suo nome, Marco. Avrei voluto informarmi ancora se fosse italiano, forestiero, se per caso non fosse nativo dell'Arabia o piuttosto ebreo. Non sapevo perché. Io gli avevo sempre attribuito un carattere orientale e in particolar modo mi piaceva di farlo appartenere alla perseguitata stirpe errante. E ancora molte altre cose avrei bramato di udire su questo personaggio che aveva frequentato l'ultima epoca felice della mia fanciullezza più magico e risplendente di Aladino. Ma rifiutai a me stesso di muovere altre domande alla matrigna e mi richiusi nella mia solitudine annuvolata. Con l'allungarsi delle sere, io avevo ripreso l'abitudine di leggere e studiare in cucina per passare il tempo aspettando l'ora di cenare. Il mio libro preferito di quell'epoca era un grosso atlante commentato da un ricco testo scritto. Il volume conteneva, ripiegate, delle immense carte geografiche a colori, ed erano quelle carte a suscitare l'attenzione della matrigna. Ella, da più sere, le considerava perplessa, come degli enigmi, finché si azzardò a domandarmi con voce schiva: «Ma che studi là sopra, Artù?» Io, senza distogliere la fronte dalla mappa distesa su cui andavo tracciando dei segni con un pezzo di carbone, le risposi che studiavo i miei itinerari, giacché, affermai convinto, l'epoca di esplorare il mondo ormai si avvicinava per me. Intendevo partire al più tardi l'anno prossimo, o in compagnia di mio padre, o altrimenti anche solo. La matrigna riguardò la mappa senza altro aggiungere, per quella sera là, ma d'allora in poi non ci fu sera che essa non tornasse sull'argomento. Una sera io le dissi: «Fammi un piacere, non distrarmi più con i tuoi discorsi quando studio». Ed essa divenne muta. Io, simile a un conquistatore nella sua tenda campale, tracciavo delle linee col carbone attraverso gli oceani e i continenti, da Mozambico a Sumatra, alle Filippine, al Mar dei Coralli, e intorno a questo mio lavoro regnava un grande silenzio sospeso. L'ho chiamato lavoro, e forse era un gioco, ma per me era più bello che scrivere una poesia, giacché, a differenza delle poesie che hanno il loro fine in se stesse, esso preparava l'azione della quale nessuna cosa è più bella. Quelle linee di carbone mi rappresentavano la scia sfavillante della nave Arturo. La certezza dell'azione mi aspettava, come dopo i bei sogni della notte si accende il giorno, che è la bellezza perfetta. Il principe Tristano davvero delirava quando diceva che la notte è più bella del giorno. Io, da quando sono nato, non ho aspettato che il giorno pieno, la perfezione della vita. Ho sempre saputo che l'isola e quella mia primitiva felicità non erano altro che una imperfetta notte. Anche gli anni deliziosi con mio padre, anche quelle sere là con lei, erano ancora la notte della vita. In fondo l'ho sempre saputo, e adesso lo so più che mai, e aspetto sempre che il mio giorno arrivi simile a un fratello meraviglioso con cui ci si racconta, abbracciati, la lunga noia. Ma torniamo a quella sera, che io avevo detto alla matrigna per favore non disturbarmi. Lei, senza più parlare, stava a riposarsi con le mani in grembo a mezzo passo da me. Il suo sguardo riandava di continuo sulle mie grandi carte azzurre, e l'anima, che in quei giorni mi era parsa inferma e quasi abbrutita, si riaffacciava dalle sue pupille piena di domande infantili e di una ignorante ambascia. Ogni volta che mi capitava di riguardarli, quei suoi occhi parlanti dicevano qualcosa di diverso. Una volta, con un linguaggio che pareva echeggiare i gridi di Cassandra, fissavano ingranditi il posto mio, come se già vedessero quel posto vuoto. Un'altra volta si posavano qua e là sulle mie carte geografiche con una fantasia scherzante e al medesimo tempo sconsolata, quasi dicendo: «Sarebbe bello per me di non avere questo corpo e di non essere una femmina, ma di essere un ragazzo come te e di correre per tutto il mondo, insieme a te». A un certo punto, essa parlò a voce alta e disse: «Io però, se ti fossi madre, mica ti lascerei partire». Alzai gli occhi e vidi che inopinatamente aveva preso un'aria scura, quasi da sbirra. Due piccole fiamme aggressive le si accesero agli zigomi e anche i suoi orecchi si colorarono vivamente di rosa. Ripeté, torcendo da me le pupille scontrose e prepotenti: «No, non ti lascerei partire. Chiuderei col catenaccio la porta e mi ci metterei davanti e ti direi: ancora non hai compiuto 21 anni per andartene dalla casa senza permesso. Se tu vuoi partire, prima hai da passare di qua». «Ma perché non stai zitta? Che parli a fare? A sentire certi discorsi io rido. Il permesso, già, davvero. Tu, secondo me, dentro la testa ci tieni una zuppa di scorfani. Va a dirla a qualche disgraziato certe frasi, che se le dici a me sei proprio ignorante. 21 anni. Io sono maggiorenne più di quelli di 21 anni. E chi se ne cura poi dell'opinione tua? Per me, quando parli tu, faccio conto che parlo un cinese». Poi, mettendomi in faccia a lei con il piglio risoluto, mi decisi a parlar chiaro. Mio padre, precisai, va sempre in viaggio solo e tu non ci trovi a ridire come per me. Perché? Su, rispondi. Ella levò su di me gli occhi oramai spogli d'ogni ferocia, in cui rideva soltanto uno stupore infantile. Tuo padre, mormorò. Ma lui è differente. E una graziosa dolcezza venne a scancellarle ogni ombra dalla faccia, simile a una sorella del suo cuore che venisse a carezzarla e baciarla, intercedendo per lei presso di me. È differente. Perché? Insistei cupo. Ma per fortuna essa non vide la mia espressione infernale. Aveva chinato gli occhi in un sorriso dolce e semplice. Perché? Disse scuotendo appena appena le spalle. Perché lui non è come a te. Per lui non mi impensierisco. Mica sono viaggi grandi suoi. Quello là fa come i cartellini. Lì per lì io non intesi il significato di una simile frase. Ed essa allora mi spiegò che i cardellini, anche quando se ne vanno via, non si allontanano mai troppo dalla propria dimora. Possono volare su un prossimo cornicione, sul tetto, su un altro davanzale, ma rimangono sempre nei dintorni. Questa inaudita asserzione sul conto di mio padre per me valse soltanto come una nuova, straordinaria conferma di quanto la matrigna fosse tarda d'intelletto. Quando ecco, un dubbio mi si insinuò, che ella in realtà non credesse a quanto asseriva, ma avesse inventato sul momento una tale risposta inverosimile e ridicola per non dirmi la sua sincera e offensiva opinione, e cioè che ella reputava mio padre un uomo grande e me un guaglioncello. Un tale sospetto bastò per rendermi intrattabile, peggio di un animale selvaggio. Riguardai quel suo sorriso da misteriosa, da santa, e proruppi d'un tratto. «Tu non mi sei madre né parente, tu non mi sei niente a me, e non ti devi mai più impicciare dei fatti miei!» Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo, di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.